che porta di spinta, la porta che porta di spinta, la porta di spinta, che di volte se sarà, si è fatta Don't be dead, don't be dead, don't be dead.